Friuli nel mondo, 83esima trasmissione dedicata agli emigrati. I nostri poeti. Vogliamo oggi farvi ascoltare, cari amici lontani, alcune composizioni di Aurelio Cantoni e di Dino Virgili, giovani scrittori friulani di risultive. Aurelio Cantoni è oggigiorno uno dei più forti e vivaci sostenitori della cultura friulana. Le poesie che lui stesso reciterà, profondamente umane, piene di candide suggestioni, di nostalgia e di passione, sono pervase da sentimenti di malinconia, di dolore, di solitudine e soprattutto di pessimismo, confortati e acquietati però dalla luce calda, viva e infinita della fede. Friul, il chiar alle di fur, si tacca i bus cuiez, e i chiamp satas in tant la io, che il cil al par di simpri simpri fer. Si mette gli ov, si vi alzi il puertonat caluiche, ma ne son lo sindvica, in tal beart si movin le sfiguris da ioms che no fevelin. Il chiar agliès, ed ome il sun des ruedis, ed ome il flad dai bus, la strade e taas. Friul, in questase la tua vita si sint lontane, e par un sium cal nas buinore a planc come la luz. Sore lutti pais, cui a sintut che si son viarz cum occhi scurs lassù, une fantate fresculine e tiale cui sadulac che il sopinsira platin li sceis li zeris, cui sadulac ale che il voli biel che nol viot li sagazis dal reius nell'aur dal cil florid di gioventut. Friul, cui caltireste, ala cui calelat, e un avenì calè come un passat. No, o sin che int, che si piart in tal tim, lasant il cor di bant clamata al vint. E niulis blancis, e morar se vit, telus deviarte aspieti in di secui une vos, une clamade di resurì. Si emple di rispirs la tiare frestie e scure che dal pan che nus nudris de speraulis di dì, quanche chiampanis fuartis assunaran di vite. Lontananzis di intator pal mont e di muarz de miserie, generazions di un popol senza vos, la speranze no mur. A son immensis li gnoz di stelis, la nestre lenghe di dolore impare per aulis che non sa il montator stiadut. Lontan dal vosarili senza sensi, in frifux dei sorei, tai ci dai monts, tai aiars vivaros dall'infinit, che ci dinor al crearà per aulis. E la fantate biele te buinore dal suo balcon lassù si emplarà di cil. La salvazion. Il Friul alle nestri, come il cuor che non sbat. Col contadin a planca va sul chiamp il vertator con ogni fros lusin. Li scros dai tors lassù, cemut ca clamin caian la nestre vos, cemut che il scur de sere si poe sugli stamossis, sui toblat e i fux in tescusinis, cisant a feveluzin come fruz. Pais di chiasis vieris cui cialdir seis tex dongeis polers, la nestre vite e ie furlane come il nestri amor. Se vuoltre so voles, o tornarin a fevelaculi, come in famè. Non sino fradis, non bevino un got col cur compagno. Quanche il stelà, all'arte di un gran pensier lassù che dozzi mov, no, o chiantarin insieme une preiere, col god de nant, col vin de nestretiare calà il savor dal cil, non murarin mai ploi se vualtris non spartais la vostre vite, come che no la nestre di cur us vinza dat. E io, gli sbielis, col fazul sul chiaf, o sai che son memari, dutis memari, parco vivi tant, co tantis vitis di dolor, a contin par me e par Dio. E i viei, cui vues fruiaz, a son mio pari. Gli utiali, dut il tim cale passat, culis buinoris di partì, cui giai disperat di passion, dut il tim ale un mar cal si mofe che allus. E i nestres muarts a son cun no, te vite di ogni dì, come il soreli che nol mur tegnot. Bevin amis, cosin furlans, l'ismonz a cercli la su in sompnus clamin tal soreli. Veris, miseris e dolor se sang, arresti in tals dianor dal nestre vivi, ma no mangin e po bevin la nestre salvazion e Jesu queste tiare di passion. Cosi chiatin insieme a tor de taule blanche di tavuais, cemut calciante il pan così lo creve, cemut calzune il vin così lo mette stazis, catar lupin come stelis. Lui dal dolor e val la nestre patrie, no, o vivarin par sempre, o sin cristians. Il Crist di len, te mont casù. Te sgnoz di stat colin chiator li stelis, e la mattine blancis e bielis li stiolin su. Dilen, te mont casu. Signor, te cros ti chiali, e tu se sbrut mal fat, ma io ti prei, senza di te di bant si va in denant. Tu ses dilen, signor, ma sulla mont, talaiar cal svintule cal bruntule o tenef che ogni robe sapulis o tal clap dur e frete slis, tu dome tutto as vos, signor, te cros di len, tu dome tu besol casu. Un got di sere. Un got ostir, ancima un got di neri. Mi plasi il so color te lus de sere, che l'orli ros talveris lusmiant. E giol di mal planchin, asclips, spietant cal veni gnot ta questiamton di pas. Amor antic, tornat di sere con quest bon vin talveri di diamant. Io soy antic, tanque il mio cor cal spere di veanci mo padim tra un chialto di mans. C'è biele rose rosse sul rosar, e la toboce ieri come il vinta che il settembre con la luz di sede. Dut rossa le il dolore, il fred stelis alle un fred di nef. Calor antic di strenzi e di muri, anche come io sint che tutto tremis. E il savor dal to sanca le tal vin treme anche mo, mi emplarai di stelis, mi asseram per aulis di vignuv, e al suonerà il brantiel la so canzion dopo vendeme, che si rita il mont e si vuelis ben come agnulins. Domani buinore, agli sarà il soreli, sui tiei chiavei li zers, mi trimaran i dez come i pinsirs, il cinglinà de strade za dismote, io cei chiantarins li sfueis talaier, e che il chialati voi e viodi dentri che tu sei darint. Mi plaserà tigniti sui genoi e piardi dut un mar che sbatte al sole trendulante l'usor. Che il porti anche un got fustir. Gli stelis asson dutis in piadis. Quest vin alla une vene d'infinit. Dino Virgili è poeta, romanziere e critico letterario e le sue composizioni, pervase da profondo sentimento e da acuta intelligenza, sono frutto di sottile sensibilità e di vasta cultura. In esse il poeta descrive la sua vita quotidiana e questa vita in stretto rapporto tra il paesaggio e l'anima schietta e piena di vera poesia dello scrittore. Ascoltatelo. La vegle, serenade di rosis e di gris, par che me fantazzute indurmidide. Li stelis sul balcon in sfese, a cucchi in jenfri un ramaz di spiar solar in rose, al sdrindule tung nizul di dormì. Ora esplatami a chi, sod la palade, buttati un clap tal scur, tacati antà, balcon ad alt. E tu un jet di rosis, che di tal prat lis rosis tor la muse, nina quessutis clipis di favit. Canzion di biele vos tal mies de strade, cu si vilò di squarz, la luna in somp e i gris i mote braide, e ie dormi. Nina, che i len sta l'orta but in fur, domantici mi arani buto i creis, e io resiesi in quel revoc di lune che ti chiarine il quarp indurmidit e mai non crecas di come ogni di. Canzion tal mies de strade di un calpasse nina butiute tinare di sup. Sisilis vearini sul puiul, acrizin, fantazzine, jazz claris e tutto pustiantà col cursi arat. La biele stele e io evade ad ore. Tu, viars la balcuniele in darindade, dai un basin a piz, torne a dormì. Laiù, quel chiar cal cloche sul stradon, almene vie con sé il lancur de gnot, e allasse un clar seren, ienfri ramas. Nina, vuglus studas di latisul. E aviarsi voi, soreli sul balcon, l'aviarte vive tal balcon, in rose, ore schiappati, uite, chi tal braccio, ma dice sai al tossen, di viole, né di gi, né di viole, alsa di frutte, cumò e in chiamesin don gelantil, cui voi in ceas, si metin come don, e la me vos di lunch il troi de braide, cu la rosade a gotis tai ramas, io o so i dome une vos che chiante, imò. Friul Palmont. A San Bortolomio, culi Sisilis, o butarin sul chiar in estris frus, e un sac di strafanis, e un cris di len. Il Friul noi è tiare plui par no, nestris paris a San li stradis vieris. O portarin cun no, dentri dall'anime, il mior Friul dome nestri, Palmont. Suntunaghi rimite e scugnusude, o chiantarin une danze di amor, a tor di un fuc, aviart sulla beortie, chialansi dreste muse antiche e rampide, o sarin pardabon il ver Friul. O plantarin un Friul gnuf lontan, e sarà ben une tiara in prometude. e crescerà in allora e un'esitate i paesi dell'intorno con i campanili e i nis di sisile sotto la linde e i frusca giuin sigant in tal cortil o può dare in ventum anche no doi. Un friul domenestri, antiche rampit, cultei e il poc, te place dal pais. Ma in che di, me, signor, fammi morire a chi sul pad di chiase, a tradiment, e sapulimi da pi dal mio morar, tal curtil, con tune cros di stex. C'è mut chiantà, lontan di te, pais. Di questi bandis. Oh, se un Dio tornas di questi bandis, che cile quei e du l'insomlis mons, o cognos duci trois des mes culinis, il spitz di mai arred dal mio pais, ah, siums, lis rois, il dolce avril, io, frut. Tal pais di mio pari e di me mari, e io una chiase viere sotto il ciuc, cui ci pres in cuc tal broili, il ronc e i orsi in rose e i poi di lunga laghe. Alè il curtil col morar grant, il cil. Alè, quanche sia voe di vai e di murì, anche mo il grim di me mari. E può fermarsi e ascoltare il lusignul e laghe ien fri poi, da pid la cleve. O murì di delizie un'altra volta co tornerai di frut, tal mio pais, piligrin sunt un chiar, o a pid. D'avril. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 83esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Perizzari.